ricordi il tuo primo compleanno, il tuo primo capodanno, quando hai fatto il tuo primo danno. Ma i ricordi lasciali stare dove stanno, cicatrici che a volte si riaprono e fanno male. Io non scappo dai ricordi, è così che ho imparato a campare. Il ricordo di una mamma, di un fratello o di un nonno, il ricordo di com'era prima il mondo, e non mi scorderò mai del tuo volto. I ricordi lasciano il segno, rimango solido come il cemento e non mi scordo da dove vengo. I ricordi sono come i tatuaggi, segnano la nostra pelle, siamo sempre più vecchi e più saggi. Sono i ricordi che fanno le nostre scelte, crollare, rialzarsi, piangere, sorridere. La sofferenza che fa male e causa il nostro vivere. Con i ricordi ci si può far male, ma sono loro che ci fanno restare con i piedi per terra, gocce nel mare, e grazie a loro oggi siamo così. I ricordi tengono unito ciò che il destino ha diviso. Il ricordo è sempre qui nel mio cuore, non sarò mai uguale a tutte ste persone. Il ricordo del bambino innocente che ero, ora più cresco, più canto e più la gente mi prende per scemo. Non rimpiango nulla di quello che ho fatto, e non ti preoccupare se vado di matto. Sono fiero della mia vita, continuo a pedalare anche se tutto in salita. La scelta di prendere la discesa, andare avanti di continuo senza pensare alla resa, sparire in un secondo e tutto questo sul nostro mondo. Mi risveglio sperando di fare un altro sogno. In amore a volte ci scappa il morto, a noi comuni mortali ci rimane purtroppo soltanto il ricordo. Con i ricordi ci si può far male, ma sono loro che ci fanno restare con i piedi per terra, gocce nel mare, e grazie a loro oggi siamo così. Senza di loro vivremmo solo il presente, scordandoci chi eravamo. Na na na na na na na na na na na na na na. Con i ricordi ci si può far male, ma sono loro che ci fanno restare con i piedi per terra, gocce nel mare, e grazie a loro oggi siamo così. Con i ricordi ci si può far male, ma sono loro che ci fanno restare con i piedi per terra, gocce nel mare, e grazie a loro oggi siamo così.